sento solo, credimi, non lo faccio apposta. È che mi rendo conto di non avere più una risposta, neanche per me. Libero i miei sogni, li rendo visibili agli occhi di tutti, ma a volte non mi libero come loro. I nervi a pezzi, distrutti, con gli occhi fissi in un punto, scruto l'infinito e guardo se c'è un posto anche per me, per dare un senso al mio vuoto. Le mie mani sfiorano i capelli sorgi della fantasia. Ti prego, non mi abbandonare, ti prego, dammi energia ancora. Combatto tutti i giorni con i vostri pensieri negativi che mi vogliono sistemato, che mi fanno abbassare gli occhi davanti ai miei genitori. Ma chi l'ha detto che sia sbagliato ciò che faccio, ciò in cui credo? No, non è vero che i miei sogni non mi porteranno lontano, non mi ci vedo. A volte ascolto tutti i suoni che la vita ci ha regalato. Non bisogna essere mica un impiegato, nemmeno un laureato, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore. Lo vedi che il mondo cambia anche senza di noi, eppure un piccolo barlume di vita lo vedo lì accanto a voi. Un uomo che piange e si lascia andare alla propria emozione, mette le lacrime in un'ampolla che mostrerà ad ogni occasione. Ci innaffia il singolo istinto di seta paziente, gli esseri umani che non sanno apprezzare il momento, e vedrai lo farà anche come domani. A volte ascolto tutti i suoni che la vita ci ha regalato. Non bisogna essere mica un impiegato, nemmeno un laureato, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore, per far battere il cuore. Io non cerco un pretesto. Ci ha regalato, non bisogna essere mica un impiegato, nemmeno un laureato.